Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera care ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il numero per scriverci, per intervenire in diretta, per farci sapere come la pensate, per commentare come sempre, quello di SMS, il 349-238-6666. Di cosa parleremo oggi? Parleremo ancora una volta dell'economia europea, partendo però dal caso che sta facendo discutere, sul quale si dibatte, che è quello della Germania. Domani arriveranno i dati sul prodotto interno lordo. Gli analisti, ve l'abbiamo già detto ieri, si dividono. Non si dividono sul fatto che sarà tutto piuttosto debole, però si dividono tra chi prevede sostanzialmente uno 0% e chi prevede addirittura un calo. Quindi segnali di debolezza anche dalla Germania dopo l'indice ZEV di ieri, che indicava insomma appunto una certa tendenza alla difficoltà. Parliamo di un'economia che è un terzo dell'economia dell'Eurozona e quindi evidentemente un segnale di rallentamento della Germania, con l'Italia già e ancora in recessione, la Francia che arranca, evidentemente crea dei problemi notevoli a tutta l'Eurozona. C'è qualcuno che soddisfatto per certi aspetti e qualcuno ci scriverà adesso la sentono pure loro, e però insomma il problema poi si ripercuote evidentemente su tutta l'Europa. Vedremo di capire se questo può modificare l'impostazione che la Germania ha dato fino adesso di fatto all'intera politica economica europea, insomma se può spingere la Germania in qualche modo a modificare la sua impostazione. Ieri avete sentito, l'abbiamo chiesto anche a Mario Seminerio, ci ha detto che secondo lui no. Parleremo di Expo. C'è stata oggi la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Milano. A dire la verità non ha detto molto, e però cercheremo, è la nostra occasione per fare un punto sullo stato dei lavori, cioè a che punto siamo, in che condizione siamo, i padiglioni sono pronti, saranno pronti a breve, e soprattutto, che è la cosa veramente importante, sono pronte le infrastrutture o saranno pronte in tempo le infrastrutture, non solamente per chi verrà in visita all'Expo, ma anche per tutti quei camion, quei mezzi e tutti quei lavori dei paesi che dovranno portare il materiale dentro Expo, dentro appunto la zona dell'Expo, ed evidentemente costruire i loro padiglioni. Quindi vedremo di fare un punto su questo. Infine un accenno a Roberto Cavalli a Casa di Moda, perché a quanto pare c'è un'offerta un po' più seria dopo più o meno 4 anni che se ne parla, da parte della Russia. A quanto pare lo stesso Cavalli non vuole vendere, valuta la sua azienda 1 miliardo di euro e non ce n'è uno, non c'è un investitore al momento disposto a offrire qualcosa di più. Prima di iniziare, naturalmente i mercati, non è che ce li siamo dimenticati. Oggi bene Milano, FTSE MIB 0,5% di guadagno, FTSE All Share più 0,42%, Francoforte su dell'1,32%, Parigi guadagna lo 0,78%, l'America anche positiva di 0,5% circa, e Londra guadagna lo 0,09%. Come sempre, 349-238-6666 per i vostri SMS. Le notizie in breve di oggi. Abbiamo un oro in leggero rialzo a 1318 dollari l'oncia, petrolio fermo a 97,3 dollari al barile. Sono arrivati poco fa i dati e adesso ve li recupero delle scorte settimanali americane di petrolio, 1,401 milioni di barili in più. Il tonfo del PIL giapponese l'avete sentito nel giornale radio, in parte atteso, in gran parte atteso, dopo il rialzo dell'IVA dal 5% all'8%. Adesso bisognerà vedere che cosa farà il governo Abe, perché è in programma in realtà per il 2015 un altro aumento dell'IVA. E insomma, visto il segnale che è arrivato, la botta che è arrivata, un calo del 6,8% su base annua, consumi che segnano meno 5%, bisognerà vedere se insomma terrà fermo questo proposito. Comunque qualche scricchiolio dell'Abenomics si sente evidentemente. Chi non scricchiola è la Gran Bretagna. La Banca d'Inghilterra ha migliorato le stime sul PIL inglese, portandole al 3,5% per quest'anno, dal 3,4% e al 3% per il prossimo. Qualche segnale parzialmente positivo dalla Grecia, dove il PIL scende dello 0,2% rispetto allo 0,5% previsto dagli analisti. Paese che potrebbe uscire dalla recessione quest'anno. In Europa, nell'Europa 18, registriamo invece un nuovo calo della produzione industriale, dello 0,3% a giugno su maggio. Sull'anno è stabile, nell'Eurozona è cresciuta dello 0,7%. L'Italia cresce dello 0,9% dopo il meno 0,12% di maggio. E il guadagno di mezzo punto percentuale di aprile, i dati sono di giugno. Abbiamo parlato a lungo ieri di deflazione, immancabile il governatore della Bundesbank Jens Weidmann, che dice che non c'è uno scenario di questo tipo. Dice anche che è essenziale che la Germania prenda delle misure per sostenere la crescita, ma è inutile cercare di gonfiare l'attività economica a breve termine con spese pubbliche. Ci ritorneremo tra un attimo. Abbiamo il nostro debito pubblico, nuovo massimo, un record a giugno, 2.168 miliardi, in risalita di 2 miliardi di euro. Contano delle partite di bilancio particolari, questo è un punto da ricordare. Perché nel semestre, nei primi sei mesi, il debito pubblico è aumentato di 99 miliardi. C'è da una parte il fabbisogno della pubblica amministrazione, 36 miliardi, che tiene dentro però anche il pagamento dei debiti alle aziende da parte delle pubbliche amministrazioni, e le disponibilità liquide del tesoro per 67,6 miliardi. Cosa tengono dentro queste disponibilità liquide? Tengono dentro anche le cessioni del debito, le aste di titoli di Stato, che sono state accelerate nella prima parte dell'anno visti i tassi favorevoli. Quindi il dato certamente non è positivo sul debito pubblico, ma come sempre sul bilancio pubblico insomma va fatta una certa attenzione. Il presidente del Consiglio Renzi incontrerà Napolitano questa sera. Questa mattina è stato, come abbiamo detto, qua a Milano, anzi a Rho per essere precisi, per l'Expo. Ha parlato ai vari argomenti, sull'Expo ci arriveremo dopo. Intanto ci sentiamo cosa ha detto sull'articolo 18. Credo che l'ultimo tema di cui noi abbiamo bisogno è una discussione ideologica. Noi abbiamo bisogno di creare posti di lavoro e faremo di tutto perché questo avvenga, riscrivendo tutti insieme nella delega lo statuto dei lavoratori, che credo che abbia bisogno di futuro e non soltanto di racconto per il passato. Poi sull'Expo dice: non cederemo a chi scommette sul fallimento, c'è una grandissima fame di Italia. C'è tutto il tema dei fondi europei, poi cosa è successo, che sono circolate indiscrezioni secondo le quali Bruxelles avrebbe detto all'Italia che rischiava di perdere i fondi strutturali, 41 miliardi tra il 2014 e il 2020. Il sottosegretario Delrio ha detto invece siamo prossimi alla chiusura del testo definitivo. La stessa Europa ha detto questi soldi non rischiate di perderli, così Renzi. In tutti i paesi, tutti e 28 i paesi, si inviano dei documenti e si ricevono delle risposte con delle considerazioni critiche. Dopodiché i paesi membri fanno le proprie valutazioni alla luce di ciò che viene detto e scritto. Mi fa piacere che voi adesso vi siate accorti che c'è un problema di fondi strutturali in Unione Europea. Io ci ho fatto due campagne per le primarie, portando le slide. Fabrizio Barca ha fatto uno straordinario lavoro sull'open government, sulle questioni dei fondi strutturali, raccontando nel dettaglio, mi pare sia opencoesione.gov, se non vado errato, come il sito di che Barca ha aperto e che va avanti sotto la gestione di Graziano Del Rio, tutte le difficoltà che noi abbiamo avuto di fronte e che cercheremo di affrontare. Stiamo affrontando. Cosa è accaduto di nuovo nelle ultime settimane sui fondi europei? È accaduto che da Palazzo Chigi si è iniziato a togliere alle regioni che non spendono e a metterli sulle scuole. Continueremo a farlo. La strategia perché noi possiamo spendere meglio i fondi europei è un obiettivo di questo governo dichiarato nel corso del mio intervento in Parlamento durante la fiducia, in tutti gli appuntamenti internazionali. È stato oggetto di una conferenza stampa ad hoc con il capo del governo polacco Donald Tusk, in cui ho sottolineato che dobbiamo fare come loro, che spendono il 98%, per cui francamente fatico a capire dove sia la notizia. Sì, c'è un tema. I fondi europei negli ultimi anni e decenni l'Italia li ha spesi decisamente peggio di come avrebbe potuto. Ci scrive un ascoltatore, visto che abbiamo fornito le notizie dalla Germania, dall'Inghilterra, chiedo scusa, il deficit è sopra il 6%, nel periodo di crisi all'8%. Ci dice anche l'Inghilterra da questo punto di vista non ha vincoli. Allora, è vero, per carità. Detto ciò, confrontare la dinamicità dell'economia britannica con l'economia italiana, sinceramente mi sembra un pochino troppo. Attilio Geroni, del Sole 24 Ore, a capo della redazione Esteri, è in studio con noi. Ciao Attilio. Buonasera, ciao signore. Allora, ti chiedo innanzitutto di centrarti un po' più sul microfono, perché sennò non ti sentiamo. Attilio Geroni, che è stato tra l'altro anche corrispondente dalla Germania, dalla Francia, quindi insomma sia dei tedeschi che dell'Europa in genere, se ne intende. Saluto anche Silvio Peruzzo, che è Senior European Economist per Nomura. Salve, buonasera e benvenuto. Salve, buonasera. Allora, io inizierei da Attilio Geroni per fare un punto proprio sui tedeschi. Abbiamo detto prima nelle notizie in breve che gli analisti si dividono tra chi ritiene che la crescita di questo trimestre sarà dello 0% e chi ritiene invece che addirittura il PIL tedesco scenderà. Vorrei capire da te, Attilio, per quanto tu conosci la politica tedesca, questo possa spingere la signora Merkel, il governo della signora Merkel, a cambiare un pochino l'impostazione, no? L'accentuazione rigorista della politica tedesca e dell'influenza tedesca sull'Europa. Ma ci vorrà ben più di un dato del secondo trimestre per convincere i tedeschi a cambiare strada, questo sia a livello europeo, no? Quindi favorendo delle politiche di procrescita, sia a livello interno, cioè rilanciando i consumi, la domanda interna e gli investimenti privati in Germania, che sono abbastanza, soprattutto gli investimenti privati e pubblici, abbastanza stagnanti. Per fare le riforme bisogna avere degli incentivi. Che incentivi ha in questo momento il governo tedesco? Il governo tedesco non ne ha tantissimi, perché ha un regime di quasi piena occupazione. Secondo me, nel momento stesso in cui l'economia tedesca, che è già in una fase, potrà essere una minima contrazione o uno stallo, la differenza non è sostanziale. È una brutta notizia per la Germania, una brutta notizia per l'Eurozona. Fino a quando questo non si tradurrà in una inversione di tendenza del mercato del lavoro, che è andato benissimo, e prima o poi questo avverrà, sarà difficile che la Germania cambi registro. Il che per certi aspetti è preoccupante, perché come sappiamo, almeno questo ci insegnano gli economisti, in genere l'andamento dell'economia si trasmette al mercato del lavoro con un discreto ritardo. Esatto, cioè c'è un lasso di tempo che va da sei mesi a un anno, se non di più, perché questo si traduca. Teniamo presente che la Germania siamo intorno al 5%, che secondo le definizioni degli economisti è quasi un regime di piena occupazione, siamo alla disoccupazione fisiologica. Poi si potrà dire che molte di questa occupazione e sottooccupazione ci sono i mini jobs, ma tutti i paesi europei hanno una quota di lavori a basso valore aggiunto, e la Germania comunque è riuscita ad invertire la tendenza che si era accentuata dall'inizio del 2000 fino al 2006-2007, poi con una crescita ininterrotta dell'occupazione. Secondo me, fino a quando il governo tedesco non si troverà di fronte a un'inversione netta di tendenza, non avrà dei grandi incentivi. Tu prima accennavi a un piano, come dire, europeo di crescita. Basterebbe che la Germania adottasse un piano di stimolo alla crescita, no? Per rilanciare la domanda interna più di quanto non stia facendo adesso, perché non è vero che la domanda interna tedesca, soprattutto i consumi, sono fermi, ci sono dei segnali positivi, ci sono stati aumenti salariali ben al di sopra del tasso di inflazione, che ovviamente è bassissimo, quindi un po' di potere d'acquisto è stato restituito. Potrebbe far bene, dico, all'economia dell'Eurozona un piano di stimolo. Le infrastrutture tedesche noi non le conosciamo abbastanza, ma hanno bisogno di un ammodernamento, e un piano di investimenti pubblici in questo settore potrebbe aiutare la Germania e di conseguenza anche l'Europa. Ma abbiamo visto che Weidmann è contrario pure a questo. Il mantra è inattaccabile. Voglio vedere di fronte ai dati della disoccupazione. Naturalmente. Silvio Peruzzo, allora, senior European Economist di Nomura, vorrei capire come la vede lei. Salve, io fondamentalmente condivido tutte le osservazioni del collega Attilio, permettimi di do del tu. È vero, i tedeschi hanno fatto un lavoro sicuramente eccellente per quanto riguarda le riforme del mercato del lavoro, che in questo momento è accompagnato anche da tassi di crescita salariali molto elevati. Vorrei aggiungere un po' di colore su quelle che sono le abitudini di consumo dei tedeschi, che in realtà rendono politiche di domanda forse meno efficienti in questo paese rispetto ad altri paesi della zona euro. Abbiamo visto in passato che nonostante il mercato del lavoro e i saggi di crescita salariale siano ben superiori a quelli di altri paesi della zona euro, la sensitività del profilo di consumo in Germania a queste dinamiche quasi superanti è stata molto molto molto bassa. In altre parole, credo che ci sia un problema di natura culturale ben radicata. Cioè i tedeschi non consumano abbastanza, esatto. Questo ci sta dicendo in sostanza. Esatto. Non spendono. Non spendono, e questo rende, secondo me, nel contesto attuale la creazione di politiche di domanda qualcosa che è abbastanza complicato, e che naturalmente va anche contro quelli che sono gli incentivi che la Germania vuole dare all'Europa in questo momento. Sono d'accordo fondamentalmente sulle analisi. L'Europa beneficerebbe in maniera enorme da una politica di stimolo della domanda tedesca. Sono molto dubbioso sul fatto che questo potrà avvenire, anche a seguito di un'economia che soffre in maniera più significativa. Non dimentichiamo che anche nei peggiori trimestri dell'ultima recessione il mercato del lavoro in Germania è rimasto relativamente stabile, ma non abbiamo visto assolutamente nessuna politica di domanda, anzi. Diciamo, l'obiettivo è stabilizzare le finanze pubbliche al massimo. Come lo vedete il dato di domani voi, come Nomura intendo? Noi le nostre aspettative sono sul trimestre, sono per crescita zero. In termini di rischi crediamo che una piccola contrazione sia lo scenario più probabile. Piccola contrazione a proseguire nel corso dell'anno o come dire, limitata no, al trimestre? Limitato al trimestre. Per quanto riguarda l'anno, secondo noi la Germania sarà uno dei migliori performance della zona euro. Abbiamo una crescita superiore all'1,5% per quanto riguarda il 2014 e anche il 2015, comparato con delle proiezioni per la zona euro che sono di circa la metà per quanto riguarda la crescita nel 2014, di circa 0,5 inferiori per quanto riguarda il 2015, quindi intorno all'1%. Bene. I rischi su questo scenario sono per numeri più bassi. Tornerei da Attilio Geroni. Attilio, da quel che dicevi prima mi sembra di capire che a fronte di eventuali dati negativi dal lato dell'occupazione, secondo te, come dire, questa rigidità della Bundesbank si potrebbe sciogliere a questo punto? Sì, la Bundesbank può dire fare quello che vuole, poi alla fine il governo, a fronte di un dato politico, perché poi la disoccupazione è il dato più macroeconomico, più politico che c'è, potrebbero essere portati a varare un piano di stimolo. Come diceva prima l'economista di Nomura, è vero che c'è un'abitudine, un'attitudine del consumatore tedesco che è proprio peculiare, non spendono, no? Spendono poco, sono parsimoniosi, sono già ricchi, no? Hanno un livello di benessere molto elevato, e poi i beni di consumo durevoli tedeschi sono durevoli per definizione, quindi anche il ricambio, no, di determinate categorie di beni si allunga nel tempo. Io in realtà sono un po' più preoccupato per il terzo trimestre, perché tutti adesso, c'è una grande retorica attorno all'impatto, no, che le sanzioni dell'Occidente alla Russia e viceversa le sanzioni russe alle economie occidentali potrebbe avere sull'Eurozona e sulla Germania. In realtà il grosso di questo impatto si vedrà nel terzo trimestre, perché adesso viene tradotto dagli indicatori economici, cioè gli indicatori che anticipano le tendenze dell'economia, ancora non si vede proprio l'impatto sull'economia reale. Io sono un po' preoccupato per il terzo trimestre, per la Germania e per l'Eurozona. Allora, abbiamo parlato molto di Germania, io vorrei chiudere con Peruzzo per parlare più in generale di Europa, perché abbiamo sentito ancora una volta, come era prevedibile, e lo cito un'altra volta, Jens Weidmann, il governatore della Bundesbank, che dice non c'è il rischio di uno scenario deflattivo. Eppure, abbiamo i dati di oggi in Francia che ci raccontano una contrazione dello 0,3% sul mese precedente, abbiamo il dato spagnolo che mostra una contrazione dello 0,9% rispetto al mese precedente e un calo dello 0,3% su anno. Abbiamo i dati di ieri italiani che, scorporati per città come ce li ha forniti l'Istat, indicano che uno scenario deflattivo sembra esserci. Vorrei capire come la vedete voi invece da questo punto di vista. Sì, questo sicuramente è il rischio macroeconomico, quello di deflazione è il rischio macroeconomico più significativo che dovremmo affrontare nel corso dei prossimi 18 mesi. C'è fondamentalmente un problema di semantica, secondo me, che bisogna anche affrontare, ovvero qual è la definizione di deflazione a livello di zona euro, con una moltitudine di paesi che hanno una distribuzione di tassi di inflazione diversi. Ora, ricordo a novembre l'anno scorso la Banca Centrale Europea definiva un processo di deflazione come qualcosa di molto stretto che credo non si sia verificato in nessun paese, neanche in Giappone, ovvero un contesto in cui tutti i paesi della zona euro hanno tassi di crescita dei prezzi negativi, quindi deflazione in tutti i paesi e per un numero elevatissimo di quelli che sono i beni all'interno del paniere. Cioè uno scenario praticamente impossibile, cioè uno scenario ipotetico. Molto difficile, esatto. Da allora i toni dell'ECB, che all'epoca rifiutava assolutamente la possibilità di deflazione, sono cambiati. Francamente credo che con inflazione a zero per un periodo prolungato in un certo numero di paesi, tra cui includo anche la Francia, la Spagna e l'Italia, credo che quello sia già un contesto deflattivo preoccupante che sicuramente va contro il mandato della Banca Centrale Europea. Quindi questo, se vediamo quelle che sono state le revisioni delle aspettative di inflazione da parte dell'ECB da dicembre dell'anno scorso all'ultimo round di giugno, le revisioni sono state molto molto significative. Da allora, da giugno, probabilmente i numeri, inclusi quelli di luglio di cui tu parlavi, hanno fatto sì che le prossime aspettative siano ancora più basse, per cui in sostanza credo che ci troviamo già in uno scenario di deflazione, possiamo chiamarla deflazione soft, ma con una Spagna al -1.4 e un'Italia che insomma intorno allo zero, in sostanza credo che quello scenario si stia realizzando. Allora, grazie anche all'ascoltatore che ci chiama Focus Carestia a causa della quantità di brutte notizie che stiamo dando. Grazie a Silvio Peruzzo, Senior European. No, scusa, credo la domanda importante che nessuno si pone veramente se la deflazione sia necessariamente qualcosa di negativo. Ma perché secondo lei no? Ma dipende. Se stiamo tutti invecchiando e dobbiamo cioè difendere i nostri risparmi, cosa meglio di una, di una lunga deflazione? Però se abbiamo un debito pubblico al 130% del PIL, diciamo, per noi è un po' più problematico. Esatto. Vabbè. Grazie Silvio Peruzzo, Senior European Economist di Nomura International, Attilio Geroni del Sole 24 Ore per essere grazie stato voi. Con noi. Un ascoltatore ci fa notare giustamente che non abbiamo fornito il dato sulle entrate fiscali, in calo del 7,7% in giugno rispetto allo stesso mese del 2013, nei primi sei mesi dell'anno il calo è dello 0,7%, però suggerisco all'ascoltatore su quel 7,7% di non concentrarsi eccessivamente, perché ne trae delle deduzioni macroeconomiche, semplicemente perché non sappiamo esattamente come funzionano le scadenze, chi ha pagato prima, chi ha pagato dopo, e quindi prendiamo il dato mensile per quello che è, evidentemente. Grazie ancora, noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo e ovviamente parleremo di mercati. Focus Economia. Allora, intanto vi dico che Milano ha chiuso bene, più 0,62% sul FTSE MIB, mezzo punto percentuale di guadagno sul FTSE All Share. Meglio di tutti ha fatto Francoforte, oggi 1,5% di guadagno, forse si compra qualcosa in attesa del dato di domani sul prodotto interno lordo. Più specificatamente sui mercati arriveremo tra un attimo, intanto saluto Giulia Crivelli del Sole 24 Ore che mi ha raggiunto in studio. Ciao Giulia, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti gli ascoltatori. Per parlare di un'operazione che riguarda un grande gruppo della moda italiano, ossia Roberto Cavalli, che dopo anni addirittura indiscrezioni, discussioni eccetera, pare che quantomeno abbia un'offerta seria, no? Sì, tutti i colleghi come anche Paola Bottelli, Carlo Festa, che insomma per noi è un po' un'odissea questa di Cavalli, perché ci sono stati davvero tante offerte anche concrete con advisor serissimi e dichiarati, si va dai fondi di private equity ai fondi sovrani, ai grandi gruppi, alla fine lui ha sempre rifiutato. E, è arrivata questa offerta invece russa da una banca, VT Bank, che poi secondo indiscrezioni starebbe trattando per alcuni suoi clienti. Comunque l'offerta è concreta ed è di 500 milioni di euro per il 60% dell'azienda, che valuterebbe quindi l'intera azienda intorno agli 850 milioni di euro, che è un'enormità per un'azienda che fattura 200 milioni. In realtà Cavalli vorrebbe più soldi. Lui due anni fa proprio a Paola Bottelli dichiarò, definendola contestualmente e beffardamente, perché lui è fiorentino ed è un tipo abbastanza beffardo, una proposta indecente. Lui disse: io vorrei un miliardo, tra l'altro per una percentuale simile, cioè il 60%, perché lui vuole restare nell'azienda, e credo che sia anche una cosa sensata, perché di creatività, di energia ne è ancora tanta. Sarebbe credo sciocco volerlo far fuori, perché poi lui è ancora l'anima dell'azienda, insieme alla moglie. E del resto porta il suo nome, del resto. Certo. Insomma, quindi, quindi sì, lui avrebbe voluto un miliardo. Pare che adesso si accontenterebbe di questi 500 milioni, anche se nessun emissario russo lo ha raggiunto con un elicottero sul suo yacht nelle isole greche per firmare, quindi parliamo di un accordo che se andrà in porto, andrà in porto dopo l'estate. Parrebbe che di 500 milioni sia una buona cifra, soprattutto perché appunto corrisponde al 60% dell'azienda. Quindi lui resterebbe e probabilmente avrebbe ancora un ruolo non soltanto importante nelle scelte manageriali, ma soprattutto in quelle creative. Grazie per questo aggiornamento alla nostra Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Una piccola nota all'ascoltatore che via SMS ci scrive a proposito di quanto spendono i tedeschi, perché poco fa sia Attilio Geroni che Peruzzo di Nomura ci hanno detto i tedeschi hanno una tendenza a spendere poco, e ci dice: lavoro sul Garda, i tedeschi sono gli unici che comprano, però non può calcolare le cose su come si comportano in vacanza, deve calcolare le cose su come si comportano in Germania, perché è quello che incide sul loro prodotto interno lordo e sulla loro domanda interna. E quindi se le abitudini sono evidentemente diverse, come saranno le sue quando va in vacanza, spende di più di quanto di quando è in Italia, presumibilmente, magari no, però insomma evidentemente la tendenza della domanda tedesca è questa. Veniamo ai mercati. Chiara Di Cristofaro, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera Simone, ciao. Allora, tutto bene in Europa, l'abbiamo detto prima, i dati li abbiamo forniti prima, particolarmente bene a Francoforte, mi sembra. Sì, Francoforte è stata la migliore, più 1,43%, sono saliti soprattutto i titoli del comparto energetico in Europa, le utility, ci sono state dati di colossi come E.ON che hanno fatto un po' da traino, ecco. Questo per quanto riguarda il quadro complessivo, tutto questo in attesa appunto del dato sul prodotto interno lordo tedesco che esatto. Vedremo naturalmente domani sapremo come andrà e vedremo che impatto eventualmente avrà sui mercati. In cima al listino vedo ancora un Banco Popolare, 4% di guadagno. Sì, allora oggi le popolari sono state una storia interessante, c'è stata un'intervista del numero uno della Popolare Vicenza, Zonin, al Sole 24 Ore, che ha rilanciato la possibilità di una polarizzazione per le banche popolari italiane, quindi ha riparlato nuovamente di aggregazioni, di unioni, lui ha detto, oltre a parlare di modifiche alla governance, ha detto che la riforma del settore è imprescindibile e nei prossimi 4-5 anni dovrebbe portare ad avere qualche banca popolare di medie dimensioni e 2 o 3 grandi, quindi questo aveva riacceso un po' gli acquisti. In realtà poi c'è stata un po' una risalita dello spread nel pomeriggio, siamo intorno ai 170 punti base adesso, e questo ha fatto scattare di nuovo un po' le vendite, quindi anche le prese di beneficio. Stamattina c'era la Popolare di Milano per esempio molto forte, quindi diciamo sono rimaste in positivo la Popolare, il Banco Popolare che citavi tu, che è salito del 4%, sì, e la Popolare Emilia Romagna più 1,11%, sì, mentre le altre hanno preso la via del ribasso. Vedo meno 1,32% per la Popolare, sì, di Milano, UbiBanca meno 1,06%, però insomma positive Intesa San Paolo, sì, più 1,04%. Tutto molto bene, infatti, sì, poi la chiusura è stata positiva. Popolare Emilia Romagna più 1,11%, Fiat anche più 0,99%, sì, positiva. Allora, G-Tech, vabbè, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, al mercato, evidentemente questa acquisizione di IGT negli Stati Uniti piace parecchio. Sì, poi è arrivato il via libera delle banche a finanziare l'operazione, quindi anche quei dettagli formali che insomma mancavano adesso ci sono, ecco. Comunque più 3,07% in chiusura. Tra le banche non abbiamo citato, ce lo fanno notare, Unicredit, il guadagno è di 1,5%. Telecom Italia. Allora, Telecom Italia si è mossa un po' incerta in mattinata e la chiusura è ancora più incerta, cioè praticamente invariata. Questo perché oggi c'è un appuntamento importante, in realtà non è un appuntamento ufficiale, dovrebbe tenersi oggi ma potrebbe essere tra oggi e domani, questo incontro tra l'amministratore delegato Patuano e il presidente azionista con il 5% di Vivendi, Vincent Bolloré. Questa riunione a Parigi fa seguito a quella che è già stata una settimana fa e servirà a Patuano per illustrare le sinergie e vantaggi che potrebbe portare una possibile integrazione tra la controllata di Vivendi in Brasile, GVT e Team Brasil. Il gruppo italiano sta studiando una proposta alternativa a quella degli spagnoli di Telefonica, che lo ricordiamo avevano offerto 6,7 miliardi. In questo modo Vivendi potrebbe avere una quota significativa in Telecom. Insomma, il mercato preferisce aspettare che ci siano novità, ma in realtà non è detto che esca qualcosa dall'incontro in sé, probabilmente se offerta sarà, arriverà al prossimo consiglio di amministrazione della società francese che c'è a fine mese. Allora, negativa CNH meno 2,4%, Finmeccanica in calo dell'1,65%, Mediolanum dell'1,32%, la Popolare di Milano l'abbiamo detto, Azimut giù dell'1,31%, Prismian dell'1,25%, Buzzi Unicem dell'1,10%, Salini in pregiro. Sì, chiude bene, chiude a più 1,7%. In un'intervista al Financial Times l'amministratore delegato Pietro Salini non ha escluso possibili acquisizioni all'estero in paesi a forte crescita. In più si è detto ottimista sulla ripresa in Italia, ha detto di aspettarsi impatti positivi dall'approvazione del decreto sblocca Italia a fine mese. Tra l'altro, tra le altre cose, è interessante perché non ha escluso la possibilità di spostare la sede all'estero, così un po' come ha fatto la Fiat. Il consiglio di amministrazione poi proporrà alla prossima assemblea un piano di buyback fino al 10% del capitale della società. Insomma, tutte notizie che gli analisti e anche gli investitori evidentemente hanno considerato interessanti e oggi hanno premiato il titolo. Ha ragione l'ascoltatore che ci dice che tra le banche ce ne stiamo dimenticando un po', ma sul listino principale sono tante, si sono dimenticati anche Monte dei Paschi, meno 1,20% sì. Oggi. Le ultime due che ti voglio chiedere, sì. Fincantieri. Fincantieri oggi sale perché Morgan Stanley ha iniziato, come si dice, a coprire il titolo, cioè ha iniziato a occuparsi di Fincantieri, quindi ha pubblicato il primo report sulla società e il giudizio è overweight, quindi sovrappesare, e il prezzo obiettivo è 0,87 euro. Adesso siamo a 0,6975, ha chiuso in progresso del 9,3%. È complessivo il giudizio su tutta la società, e sul portafoglio ordini del gruppo, sui mercati verso cui è esposta, quindi insomma un report decisamente che è servito. Infine, che è successo a Zucchi? Ma Zucchi fa più 19%, è stata sospesa al rialzo per buona parte della seduta, ma di fatto risale dal minimo storico che ha toccato pochi giorni fa, quindi è una risalita ma è da un profondo rosso. Qualche giorno fa, lo ricordiamo, è uscita la notizia che KPMG non ha certificato la semestrale del gruppo perché ha dei dubbi sulla continuità aziendale della società. E il rosso è di 11,8 milioni di euro, i ricavi sono in calo e i minimi storici sono stati a 0,0513, quindi diciamo è un rialzo sì molto evidente, ma su un titolo che è un'azienda, è un titolo in forte difficoltà. Allora, grazie a Chiara Di Cristofaro di Radio Corriere Sole 24 Ore per gli aggiornamenti dai mercati. Prima di andare alla viabilità e poi parlare di Expo, ancora una risposta sul tema della deflazione, perché su questo continuate a scriverci e io capisco che da un punto di vista di pura osservazione della realtà da consumatore la deflazione possa sembrare qualcosa di buono. E però, ci scrive un ascoltatore, smettetela di sparare a zero sull'assenza di inflazione, non capite che l'inflazione peggiorerebbe ulteriormente il potere d'acquisto, eccetera, eccetera. Il punto è che, lo ripetiamo ancora così come abbiamo fatto ieri, se calano i prezzi si contraggono i margini delle aziende, quindi le possibilità di guadagno delle aziende, e le aziende che cosa fanno? O tagliano i salari o tagliano il personale oppure addirittura in certi casi chiudono, cosa che già avviene normalmente, figuriamoci se si contraggono ulteriormente i margini, e quindi si rischia di entrare in una spirale da questo punto di vista. In aggiunta, per un paese ad alto debito pubblico come il nostro, con i prezzi in calo noi andremo a pagare di più gli interessi sul nostro debito pubblico, non in termini nominali naturalmente, ma in termini reali. Il problema è esattamente questo. Poi, che ci possa far piacere pagare di meno il telefonino o la spesa al supermercato è un altro conto. Che gli effetti della deflazione possano essere nefasti è evidente. Forse non è ancora deflazione conclamata questa, non lo è effettivamente, non lo diventerà, non lo sappiamo, però ad avvertire non si fa male. Traffico. Focus Economia. Nota bene tra l'altro l'ascoltatore che sempre al 349-238-6666, un altro ascoltatore giustamente ci dice la deflazione va bene per chi ha un reddito fisso ed è illicenziabile, non va bene per chi offre un servizio e che deve far scendere i prezzi, quindi ragioniamo anche in questi termini. L'Expo. Adesso risentiremo alcune delle parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per favore smettete di scrivere che siamo dei servi solamente perché facciamo sentire le parole del Presidente del Consiglio, come avete fatto prima quando abbiamo mandato qualche voce, soprattutto a proposito dei fondi europei. Allora, dice Renzi che l'Expo sarà la chiave della ripartenza dell'Italia. Il primo maggio, giorno dell'inaugurazione, sarà il No Goofy Day. Non cederemo a chi scommette sul fallimento. Parla di un obiettivo, mi pare, di 10 milioni di biglietti. Sentiamo alcune delle sue parole. 147 paesi, 5 milioni di biglietti già venduti, un obiettivo molto importante con il mondo cinese, 1 milione di visitatori dalla Cina e saranno di più, io sono convinto. Il Premier ha poi annunciato un tavolo ad hoc per tutte le questioni che riguardano i rapporti con il Comune di Milano. Le questioni con il Comune di Milano sono tante, non sono soltanto queste, sono anche infrastrutturali. È evidente che saranno sciolte in un tavolo ad hoc. Oggi l'occasione è quella di, che è già in corso, ma che sono l'occasione di oggi per noi è fondamentale, quella di dire che si va avanti e che la tempistica dei lavori sarà rispettata. Frasi che ha detto in risposta ad una domanda fatta dalla collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci, che è in studio con noi. Ciao Sara, buonasera. Ciao, buonasera. Non mi sembra che ti abbia risposto un granché. Che cosa gli avevi chiesto? No. Una domanda semplice, ma evidentemente complessa per il governo: trovare risorse per il trasporto pubblico locale, quindi risorse aggiuntive rispetto a quanto già chiesto per il sito espositivo. Si tratta di circa 130 milioni per rafforzare il TPL, appunto il trasporto pubblico locale, ma anche per assumere nuovo personale. In particolare il Comune chiede anche delle deroghe al limite che gli enti locali hanno di fare assunzioni a tempo determinato e anche al tetto degli straordinari. Su questo addirittura c'è un po' un paradosso: sarebbero pronti gli emendamenti condivisi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non c'è ancora un decreto dove farli traghettare, quindi momentaneamente non si sa nemmeno bene quando arriveranno queste deroghe. La situazione è in stallo. Vorrei allargare il discorso, no? Al di là di queste questioni, e capire un attimo lo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo detto che ci sono due fronti, no? Da una parte c'è quello che sta succedendo all'interno del grande cantiere e poi quello che succede all'esterno, ossia le grandi infrastrutture, che poi, se vogliamo, è quello che veramente resta ad una città, sì, e ad un paese. Partirei però dall'interno, vorrei capire da te come sono messe le cose. Allora, lato. Effettivamente, avendo potuto vedere un po' lo stato di avanzamento questa mattina, proprio durante l'incontro con Renzi, i vertici della società Expo, e poi erano presenti anche i ministri Lupi e Martina, posso dire che rispetto a qualche mese fa, anche solo a qualche settimana fa, si comincia a vedere delle strutture in verticale, quindi effettivamente si è recuperato un po' di ritardo. Non siamo ancora perfettamente in linea con il cronoprogramma, ma bisogna anche dire che per velocizzare i tempi il sito espositivo ha subito anche delle riduzioni, quindi delle semplificazioni per cercare di non arrivare proprio con l'acqua alla gola, come si dice, all'appuntamento di maggio 2015. Cosa che avverrà comunque. Avverrà comunque, però diciamo si è cercato di semplificare alcune strutture. Alcuni paesi hanno già cominciato a fare le fondamenta dei padiglioni. Ho visto per esempio quello degli Emirati Arabi, che è forse la presenza più interessante, proprio perché ricordo poi tra 4 anni l'appuntamento sarà proprio negli Emirati Arabi per il prossimo Expo, e sappiamo bene che tra l'Italia e gli Emirati Arabi stanno nascendo dei rapporti non solo commerciali ma anche proprio di supporto professionale, visto che si stanno già chiedendo degli aiuti in termini di management, di occupati. Le persone che hanno già imparato il mestiere in Italia sarebbero già state chiamate per i prossimi anni, quindi diciamo anche uno sbocco occupazionale interessante. Ecco, questo per quello che riguarda il sito, un po' in ritardo, ma più o meno anche l'amministratore delegato e commissario unico di Expo Giuseppe Sala ha rassicurato. Anche Renzi stamattina in modo entusiastico ha parlato di un successo, quindi di un rispetto della tempistica. Senti, invece per quanto riguarda la parte fuori, come si diceva, quella se vogliamo essenziale, se ne parlava anche prima della trasmissione, no? Perché poi a un certo punto dovranno anche non riguarda solamente, lo diciamo e lo diciamo anche in apertura di trasmissione, non riguarda solamente chi verrà in visita all'Expo, ma riguarda anche tutti quei paesi che, dei quali alcuni hanno già gettato le fondamenta, ma devono portare una quantità di materiale enorme all'interno del sito. Ecco, diciamo, collegato al sito ci sono i lavori che da fuori del sito devono entrare dentro, perché i padiglioni in gran parte, diciamolo, verranno costruiti fuori e verranno poi assemblati all'interno del sito. Il problema che sta nascendo è proprio quello di tipo logistico, una cosa che, a cui spesso non si pensa, perché chiaramente ci vogliono delle competenze ingegneristiche. Mi stanno dicendo invece da Expo che uno dei problemi fondamentali sarà gestire questo enorme traffico di materiale e di lavoratori che dovranno uscire e entrare da cantieri, cosa non banale, perché consideriamo che ci sono delle strade che sono anche delle statali che verranno intasate e che potrebbero creare dei problemi anche alla cittadinanza intorno. Comunque si dovrà gestire con molta attenzione proprio l'ingresso e la gestione dei lavori, non soltanto proprio la costruzione. E da quel lato come siamo messi? Cioè quali erano le infrastrutture principali previste per Expo e in che stato sono? Allora, le infrastrutture, per permettere un po' di capire, diciamo, alla fine, ad oggi io riassumerei così, sono di due tipi: due le grandi infrastrutture, prima di tutto le grandi infrastrutture regionali, che sono infrastrutture che sono indirettamente collegate ad Expo, sono infrastrutture che per lo più il territorio aspetta da 20 anni e che di fatto poi la Regione Lombardia, ma lo stesso governo o il Comune di Milano ha utilizzato l'Expo, come avviene in tutti i paesi, per riuscire a realizzare cose che altrimenti sarebbero rimaste soltanto in un libro di fantasie, cosa che peraltro in gran parte ci rimarrà comunque. Diciamo che però per quanto riguarda le grandi opere regionali, abbiamo già visto con un anno di anticipo, cerchiamo anche di essere ottimisti, la Brebemi, peraltro fatta esclusivamente con denaro privato perché in project financing, è vero che sta aspettando la defiscalizzazione da parte dello Stato, cosa che dicono essere particolarmente delicata, però di fatto è fatta. Ci sarà anche ad esempio la tangenziale esterna ad est di Milano e poi la Pedemontana, che rimarrà invece un po' ancora al palo per diversi anni, è un'opera molto costosa che non ha trovato né una società adeguata e nemmeno le risorse per potersi... E queste quindi sono quelle, diciamo, meno direttamente collegate all'Expo e più relative, insomma, alla che comunque alla regione, ricordo erano state comunque presentate al BI ed erano state comunque inserite nel cosiddetto appunto dossier Expo. Poi ci sono quelle direttamente collegate al sito e che sono molto delicate perché rappresentano di fatto il modo per accedere a questo sito, quindi il sito, per quanto bello e grande possa essere, poi ha bisogno di strutture. Ci devi entrare. Ci devi entrare, esattamente, per cui ci sarà la metropolitana 5, la linea 5, che di fatto è in dirittura d'arrivo, sarà completata o quasi per Expo, mancheranno alcune fermate, ma comunque è un'infrastruttura che rimarrà in dotazione alla città. In quel periodo appunto verranno potenziati i mezzi pubblici, perché ricordo le stime parlano di 20 milioni di visitatori a Milano e in Italia in generale. E si parla anche di strade che invece, ahimè, sono ferme, come il potenziamento della ROM Monza, che ormai ha raggiunto un livello di ritardo tale che si dà per scontato che non ci sarà. Si stanno operando delle trattative molto delicate con gli enti locali, che ricordo si sono opposti a questi lavori, per cercare di migliorare la viabilità locale, ma anche questa non è scontata, perché c'è un tratto in particolare, ricordo quello di Paderno-Dugnano, dove sono insorti enti locali e vari comitati ambientalisti, che poi è stato un grosso problema per l'Expo, non solo qui ma anche su altri fronti. Anche un'opera banale, sembrava addirittura simbolica per Expo, le vie d'acqua, quindi il ricongiungimento, l'ampliamento dei navigli, l'irrigazione di alcuni parchi del sud, ha comportato di fatto uno stop, almeno nel tratto finale, perché i comitati ambientalisti, i cosiddetti no canal, hanno proprio bloccati il lavoro. Esatto, ma adesso hanno riaperto alcuni cantieri con il presidio dei carabinieri. Sì. Allora, giusto per chiarire con gli ascoltatori, nessuno qua sta gufando su Expo perché ce lo scrive un ascoltatore utilizzando la stessa terminologia di Renzi. Stiamo semplicemente dando un quadro della situazione, dello stato della situazione, nella speranza naturalmente che questa grande manifestazione funzioni nella maniera migliore possibile, perché evidentemente è l'auspicio di tutti. Renzi o non Renzi, non è una presa di posizione politica, insomma è una roba che se funziona fa bene a Milano, fa bene alla Lombardia e fa bene al paese, evidentemente. Quindi non si sta gufando, si sta semplicemente facendo un punto sullo stato dell'arte a meno di un anno dall'avvio di Expo, quindi con tempi oggettivamente piuttosto stretti. Allora, ci sono ancora molti messaggi che vedo sul tema della deflazione, altri messaggi che ci parlano invece della questione delle tangenti e dell'inchiesta sulle tangenti. In realtà per questo non abbiamo tempo di parlare, ma non perché siamo omertosi o reticenti, ma semplicemente perché non abbiamo tempo e il tempo sta finendo, alle 17:59 dobbiamo chiudere. Di questo magari ci si tornerà ad occupare sicuramente, tenendo presente che l'inchiesta va avanti, la Maltauro è commissariata e le cose procedono come sapete. Ringrazio Sara Monaci del Sole 24 Ore, Valeria Bernardi in regia, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.